in primo piano. Lunedì 21 giugno, è estate, anche se non si direbbe, e allora, come detto, l'apertura in realtà della maggior parte dei quotidiani è dedicata alle vicende degli appalti, l'inchiesta, la mega inchiesta sugli appalti al G8 che ora coinvolge anche il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe. E un po' tutti i giornali aprono su questo. Il restauro fantasma di Sepe è il Corriere della Sera. IPM a Napoli, Sepe collaboro per Repubblica. Anche la Stampa, Sepe pronto a collaborare. Così come il Messaggero, il Vaticano, Sepe collaborerà. Mentre il Giornale, la Chiesa è sotto attacco. L'Unità apre su Pontida, il pasticcio di Pontida è proprio la vicenda, insomma, dei tanti ministri che sembrano sovrapporsi, federalismo, troppi ministri per l'Unità. L'apertura del Sole 24 Ore, edizione del lunedì, è dedicata all'evasione fiscale, rischi fiscali per 100.000 società, saranno verificate 60.000 imprese in perdita sistemica e 40.000 apri e chiudi. Ma come detto, iniziamo dalla vicenda che vede coinvolto, tra gli altri, il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, da ieri indagato, si è scoperto insieme all'ex ministro Lunardi. Il cardinale, l'applauso dei fedeli sul Corriere della Sera. Qual è la vicenda? La vicenda, la leggiamo a pagina 2 del Corriere della Sera, risale al 2003. Nell'autunno del 2003, scrivono Marco Imarisio e Fiorenzo Sarzanini, la facciata del palazzo di propaganda Fide in Piazza di Spagna viene completamente avvolta da un ponteggio esterno. Manutenzione provvisoria e restauro, si legge sulla targa che segnala lo stato dell'opera. Il progettista è l'architetto Angelo Zampolini, che 7 anni dopo diventerà noto per essere l'uomo di fiducia di Diego Anemone. È questo solo l'inizio di quegli interventi che nel 2005 beneficeranno di un finanziamento statale da 2,5 milioni di euro, sul quale anche alcuni organi di controllo avevano sollevato molte perplessità. Primo di questi, l'allarme della Corte dei Conti, sollecitata da una denuncia del sindacalista della UIL Gianfranco Cerasoli. E dunque, da questo, sarebbe da questo appalto che è nata un po' l'inchiesta per la quale il cardinale Sepe è indagato. Il cardinale che si difende in qualche modo, tutti ieri sono andati a Napoli, ovviamente, i grandi cronisti, per vedere come di strappare qualche battuta. Goffredo Buccini sul Corriere racconta di un cardinal Sepe che impone le mani paterno sulle teste dei cronisti e sospira: ogni croce è croce, ma sempre croci sono, non c'è vita di cristiano senza croce. Tra poche ore saprete la verità, sarete soddisfatti, insomma, poche parole, poi rivolte ovviamente soprattutto ai fedeli. Voi chi dite che io sia, cita il Vangelo di Luca, stando come Gesù davanti agli apostoli, perché, racconta Goffredo Buccini, è questo che, a cui punta Sepe, vale a dire l'assoluzione che deve venire dal popolo. Ora però c'è tutto il giallo sulla collaborazione. Collaborerà, ha fatto sapere il Vaticano, ma c'è questa frase del portavoce Vaticano, padre Lombardi, che suona così: naturalmente bisognerà tenere anche conto degli aspetti procedurali e dei profili giurisdizionali impliciti nei corretti rapporti tra Santa Sede e Italia che siano eventualmente connessi a questa vicenda. Il riferimento è chiaramente al concordato. Dunque, collaborerà nel rispetto del concordato, anche se non è citato esplicitamente. Paolo Conti sul Corriere della Sera intervista, per esempio, chi? Un giurista, il professor Enrico Vitali, che insegna diritto ecclesiastico e canonico all'Università Statale di Milano e che spiega quello che può succedere. Intanto la premessa: il cardinale è una strana figura, racconta il professor Vitali. Nel concordato del 29 venne equiparata ai principi di sangue reale. Il fatto che lui abbia un passaporto vaticano deriva dalla sua antica condizione di prefetto di propaganda Fide, uno dei dicasteri vaticani, perché in realtà godono della cittadinanza vaticana, ma a patto che risiedano nella città del Vaticano e in Roma. Al che facciamo un'ipotesi: può essere convocato per un interrogatorio? Facendo valere la sua condizione speciale, potrebbe chiedere che l'interrogatorio si svolga in un luogo terzo o addirittura presso il suo domicilio. Sempre in pura teoria, potrebbe essere arrestato? Chiede Paolo Conti. Escludo che qualcosa del genere possa accadere, anche per l'assoluta mancanza di pericolo di fuga. Ma inseguendo sempre le ipotesi, Sepe potrebbe nel caso sostenere che all'epoca dei fatti contestati non era arcivescovo di Napoli, ma prefetto di propaganda fide. E ora l'articolo 15 del concordato del 29 attribuisce a quel palazzo le immunità che si riconoscono, secondo il diritto internazionale, agli agenti diplomatici di stati esteri. Quindi, sempre in teoria, potrebbe sostenere che quanto possa essere avvenuto tra quelle mura è di assoluta e totale pertinenza dello Stato Vaticano e non riguarda minimamente la Repubblica Italiana. Vabbè, siamo un po' alla fanta giustizia, certo bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi. Ovviamente li seguono un po' tutti i giornali. Su Repubblica parla ancora nuovamente, anche se per poco, l'ex ministro Lunardi, la cui intervista rilasciata a Corrado Zunino qualche giorno fa ha scatenato veramente un putiferio. Parlava di favori. Ora Lunardi, sempre a Corrado Zunino, fa qualche battuta, esordisce così: è stata devastante quell'intervista, devastante, lo riconosce lui stesso. In che senso? Beh, l'effetto è stato devastante sul piano politico, personale. Ma lei ha parlato di favori, io ho usato il termine cortesie, dice Lunardi, e poi taglia un po' corto, dice: sto aspettando che la magistratura mi convochi, guardi, non voglio più parlare, spiegherò tutto ai magistrati. Chi difende assolutamente a spada tratta il cardinal Sepe è Rocco Buttiglione, sempre sul Corriere della Sera, pagina 6. È un esempio di integrità. Perché c'entra Buttiglione? Perché è colui che, insieme a Lunardi, allora era ministro alla beni culturali, e firmò in tandem con Lunardi proprio il via libera a questo finanziamento di 2,5 milioni. Lui dice: ho fiducia assoluta nei magistrati, ma non credo assolutamente alle accuse rivolte al cardinal Sepe. Riguardo all'ultima domanda, ma lei conosce Anemone, Balducci, la cosiddetta cricca? Non voglio dire di non averli mai visti né conosciuti, dice Buttiglione. È probabile che li abbia incrociati, non ricordo, ma non sono personaggi rilevanti nel mondo dei miei contatti. Ora, chi è durissimo è Vittorio Feltri sul Giornale. La Chiesa è sotto attacco. Ci sono due editoriali, uno dello stesso Vittorio Feltri e uno di Marcello Veneziani. Marcello Veneziani scrive: alla fine incrimineranno Dio per corruzione, avendo favorito alcuni suoi figli, sfavorito altri nella vita o sin dalla nascita. Un'azione sferrata dalla magistratura che non ha precedenti, segna una svolta storica se non teologica. Dalle indagini sulla protezione civile sta passando alle indagini sulla protezione divina. Il processo al cardinal Sepe, a Don Gelmini, il processo alla memoria di Pio XII, gli svariati atti d'accusa ai legionari di Cristo, ai preti pedofili. Ma Marcello Veneziani dice: la Chiesa è sotto attacco. E anche Vittorio Feltri si concentra, per esempio, sul processo Don Gelmini. In un suo editoriale dice: il caso Don Gelmini è paradigmatico. Riassumendo, si parla di Don Gelmini che, quando aveva già oltre 80 anni, avrebbe molestato persone che non erano bambini ma bensì giovanottoni, rotti ad ogni esperienza, anche le peggiori: rapine, prostituzione, furti, arresti, detenzione. Scusate, come poteva un ottuagenario, per quanto in salute, piccoletto e non palestrato, abusare di marcantoni tutt'altro che timidi e sprovveduti? Mi ricorda il caso Muccioli, dice Vittorio Feltri. Insomma, per Feltri la Chiesa è sotto attacco. Questo scrive in prima pagina del Giornale. Mentre di questa vicenda se ne occupa anche nell'editoriale di prima pagina del Foglio del lunedì Giuliano Ferrara. Vi spiego cos'è una cricca, parola di cassazionista. Ferrara esordisce così: cricca è termine politico ideologico, ma la mia lettura di questa inchiesta, di questa storiaccia, è questa. Vedo comportamenti gravemente inestetici, illegittimi rispetto all'etica del pubblico funzionario, e vedo dimostrati modi di concepire la funzione amministrativa inaccettabili, sanzionabili, ma non vedo un patto corruttivo organico. In alcuni casi ho anche visto invece la volontà di fare male. La Cassazione, con una sentenza di venerdì scorso, mi ha dato ragione, se posso usare. Dovendo giudicare del passaggio a Roma delle inchieste, ha stabilito che le inchieste devono essere trasferite a Roma. E ha scritto la Cassazione: È un sistema di relazioni professionali e personali che ha realizzato una rete di interessi intrecciati non legittimi. Gli indagati fanno parte di un sistema di potere in cui appare normale accettare e sollecitare utilità di ogni genere da parte di imprenditori del settore delle opere pubbliche, settore nel quale quei pubblici ufficiali hanno potere di decisione o notevole potere di influenza. Ecco, questo è il reato della cricca, scrive Ferrara. Aver governato un sistema di potere con favoritismi incompatibili con una società ordinata e decente. Ma per parafrasare l'epico gesto di Craxi alla Camera nell'aprile del 93, quando chiese ai deputati di alzare la mano se in grado di giurare che i loro partiti non erano mai stati finanziati in modo irregolare o illegale, permettetemi di dire, alzi la mano quel sindaco, quel pubblico amministratore, quel funzionario di destra, centro, sinistra, sud, nord, Italia, d'Europa, che non abbia favorito lobby di potere nel settore amministrativo di sua pertinenza e non ne abbia ricevuto in cambio favori in convergenza di interessi legale, magari, ma certo secondo questo metro non legittima. Alzi la mano che gliela taglio. Così Giuliano Ferrara, insomma, che parafrasando l'epico gesto di Craxi, lo definisce lui nel 93, interpreta, dà la sua interpretazione su quello che sta avvenendo sulla cosiddetta cricca. E allora il tema politico sicuramente del giorno è la riunione del 20° anno di Pontida, tanto che la Padania esce in edizione speciale, Milano, Venezia e Torino capitali, c'è Umberto Bossi con il pugno chiuso che arringa il popolo padano. Da Pontida, tanti ovviamente gli articoli su questi, e proprio da Pontida e dalla l'affondo di Bossi per il federalismo un solo ministro, io. L'abbiamo sentito anche nel GR, ieri c'è stato il raduno a Pontida, tradizionale della Lega, era il 20° anno, e Bossi ha parlato di quello che è il tema, ripeto, anche del nostro sondaggio. Nasce il Ministero per l'attuazione al federalismo, è stato messo a capo Aldo Brancher. Secondo voi era necessario? Qualcuno parla di duplicazione, qualcuno parla anche di un'accusa, mettere Brancher a quel posto per dargli la possibilità di usufruire del legittimo impedimento, perché è sotto processo. E Brancher fa un'intervista a Repubblica ad Alberto D'Argenio e si parla proprio di questo. Intanto, perché Bossi ha detto questa frase? Forse perché queste cose, i compiti che mi aspettano il popolo leghista, non le aveva ben chiari. Lei che ruolo avrà allora? Berlusconi ha capito che il federalismo va completato entro i prossimi 3 anni, perché è una di quelle cose che lascerà il segno. E ogni volta che si conclude una legge sull'attuazione del federalismo bisogna accompagnarla affinché venga realizzata il più in fretta possibile. È importante che sia un ministro del PDL a fare da congiunzione tra la Lega e i ministeri sulle quali queste leggi impattano. E poi ecco qui l'accusa. Si è scritto che il suo ministero è stato creato per permetterla di usufruire del legittimo impedimento nei processi in cui è imputato. Sentite come risponde Brancher: non ho avuto il tempo di fare questo ragionamento. Con tutto quello che ci sarà da fare dovrò ragionarci su. Se il legittimo impedimento fosse stato così urgente, sarei diventato ministro 2 mesi fa. Dunque lei nega? Sì, totalmente. Escludo che questo incarico sia stato creato per i processi. Questa insomma è la vicenda politica. Come detto, dovete votare su radio24.it, che ne pensate, ne parleremo più avanti. Voglio prendere in mano il Sole 24 Ore, che oggi nell'edizione del lunedì parla di evasione fiscale. Attenzione ai rischi fiscali per 100.000 società. Il fisco a caccia delle perdite fasulle, scrive a pagina 3 Emanuele Scarci, perché la manovra spinge almeno 100.000 società nel mirino del fisco. Si tratta di 40.000 soggetti che avviano una nuova attività per chiuderla dopo pochi mesi e di almeno 60.000 società che per più di un anno hanno registrato perdite fiscali. Allora, il mirino del fisco andrà a vedere queste società. L'obiettivo è quello di recuperare 2,8 miliardi da parte dello Stato. Che tipo di società? Sono grandi e piccole, società di capitale, di persone, oppure semplici ditte individuali operanti nei settori più disparati. Insomma, fa sapere il Sole 24 Ore, stando ai dati elaborati da Unioncamere, c'è un po' una varietà nella possibilità di colpire da parte del fisco. Certo, potenzialmente sono più a rischio le società in perdita sistemica dell'immobiliare, delle costruzioni e del commercio. Un'altra notizia che troviamo a pagina 4 del Sole, sempre economica e finanziaria, molto interessante, è quella delle class action. La class action che in Italia è partita, sembrava, no, dovesse scoppiare come una nuova idea presa dal mondo anglosassone, e invece si scopre la class action non decolla. Tribunali a corto di richieste, certo, sono passati solo pochi mesi, bilanci definitivi non se ne possono fare, scrive Andrea Maria Candidi, ma di fatto la class action non decolla. Resta il fatto che a tutt'oggi, a 6 mesi dal battesimo, le azioni collettive si contano sulle dita di una mano. Pensate, l'unica class action che è stata esaminata da un organo giudicante, quella del Codacons contro le commissioni di massimo scoperto a Intesa San Paolo, è stata anche miseramente affossata dal Tribunale di Torino. Perché? Perché il Tribunale di Torino ha deciso che chi fa la class action deve avere un interesse diretto, cioè deve aver subito lo stesso danno di cui si chiede conto. A Roma pende una proposta gemella, sempre fatta dal Codacons, in questo caso contro Unicredit. Bisognerà vedere se a Roma decideranno come a Torino. Queste sono le uniche due. In realtà, a tutt'oggi, una sola seconda azione ha raggiunto un tribunale, quello di Milano, ma l'appuntamento è rinviato a ottobre. Si tratta del Mirino, e nel Mirino, in questo caso, il test fai da te contro l'influenza A, commercializzato durante l'allarme per il virus. Ma per il resto ce n'è un'altra, il Tribunale di Roma, che pende un'azione contro per dare a ciascun fumatore un risarcimento di 2.000 euro per la dipendenza da nicotina. Però, insomma, devo dire che ci sono anche un paio di progetti annunciati da alcune associazioni di consumatori, ma che la class action non sia decollata mi sembra abbastanza evidente. Voglio segnalare che il giornale continua nella pubblicazione degli stipendi che pagate voi, e vale a dire oggi c'è la regione Calabria, voglio segnalare come al solito i nomi dei due dirigenti che guadagnano di più, 183.000 euro, sono Domenico Carnevale e Andrea Guerzoni, 183.000, 8,76 centesimi, mentre c'è anche tutto l'elenco di consulenze. Come voglio andare per concludere, che dobbiamo dire? Ieri l'Italia, diciamolo francamente, è stato un mezzo disastro. Lippi, tutto qui? Titola così la Gazzetta dello Sport. Il pareggio con la Nuova Zelanda ci complica la vita. Italia addormentata, il gioco non si vede. Si parla anche di mugugni negli spogliatoi, Lippi che dice non ho lasciato fenomeni a casa, c'è qualche problema con Pepe che ha contestato la sostituzione. C'è addirittura, si profila questo, dovessero finire le ultime due partite, vale a dire Slovacchia, Italia, i Paraguay, Nuova Zelanda, con lo stesso identico risultato di pareggio, ci sarebbe la monetina, cioè tra noi e la Nuova Zelanda si passerebbe col lancio della monetina. Finissero ovviamente con lo stesso risultato di pareggio, che ne so, 2-0-0, 2-1-1, 2-2-2, se finissero le ultime due partite del girone così. Invece c'è da registrare che sono furibondi in Piemonte. Se siete in Piemonte, nella zona di Torino, nella zona di Cuneo, e a macchia di leopardo nella regione, ieri probabilmente non avete visto sul digitale terrestre della Rai il secondo tempo della partita. Magari siete ancora un po' incazzati, sappiate che la Rai ha detto è un blackout inspiegabile, mistero sui motivi. Sta di fatto che in Piemonte molti non hanno visto il secondo tempo della partita.